Perfetta Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sì, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo sussulto di patriottismo perché dopo 71 anni di provvisorietà l'inno di Mameli è ufficialmente l'inno degli italiani. Il Senato ha approvato definitivamente questa legge che lo rende ufficiale. Era stato deciso dal Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 1946 di adottarlo provvisoriamente. Sono stati 71 anni di provvisorietà e adesso è l'inno ufficiale. La beffa forse è che proprio quest'anno non si potrà cantare, anzi nel 2018, ai mondiali, visto che in questi giorni è mancata la qualificazione ai mondiali per la nazionale. Insomma, un momento veramente particolare e paradossale. Ce ne occuperemo raccontando anche un po' la storia di questo inno travagliato, anche spesso dileggiato, insomma, che a molti non è piaciuto. A voi piace, sappiate che comunque da oggi lo è ufficialmente. Ci occuperemo poi di molte altre cose, parleremo anche ovviamente proprio di calcio, perché oggi sono state prese delle decisioni. Ventura non è più il CT, Tavecchio invece resiste. Poi molti altri temi, come sempre, qui Effetto Notte. Allora, tra poco vi riassumerò la giornata, come sempre. Poi cominciamo dopo la viabilità a raccontare insieme agli ospiti ed approfondire alcune notizie in particolare. Per i vostri commenti, lo sapete, due canali privilegiati per interagire qui Effetto Notte: il numero per WhatsApp ed SMS che è 349 238 6666, e poi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte che è sempre lì per voi giorno e notte. Cominciamo allora con il riassunto della giornata. Nazionale di calcio: Ventura non è più il commissario tecnico azzurro, il presidente della FIGC Tavecchio invece resiste, dice non mi dimetto, chiederà la fiducia al prossimo consiglio federale. Ambiente: alla conferenza dell'ONU l'appello della cancelliera Merkel, i cambiamenti climatici sono una sfida centrale per l'umanità, salviamo il mondo. Conti pubblici, altre bacchettate di Bruxelles, Gentiloni replica, l'Italia non è più il fanalino di coda. Migranti: per il commissario europeo Avramopoulos gli sforzi dell'Italia sono eroici e secondo l'autopsia le 26 donne arrivate morte nel porto di Salerno sono decedute per annegamento e asfissia. Politica: Fassino apre il dialogo a sinistra, stop di MDP sull'alleanza, Grasso dice non ho titolo per trattare, per D'Alema la strada è tracciata. Gay: l'omosessualità inserita nella categoria delle malattie nei test di medicina è di una gravità inaudita, commenta la ministra Fedeli. Maltempo, emergenza in Abruzzo per le forti piogge. Abusi sessuali, la moglie difende Brizzi, girano voci per me sono tali, dice Marussella Izzo. Sottolinea è stato mandato via dalla scuola di recitazione a Roma per i racconti delle sue allieve. È morto Luis Bacalov, Oscar per la colonna sonora del Postino, nato in Argentina, viveva dal 1959 in Italia. Il canto degli italiani di Mameli dopo 71 anni è ufficialmente l'inno italiano. Partiamo quindi dal calcio. Giampiero Ventura quindi non è più il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha deciso il vertice della FIGC convocato dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali 2018 in Russia, e quindi resta in sella invece il presidente federale Tavecchio, che si è detto indisponibile alle dimissioni e pronto a sottoporre al Consiglio federale una serie di proposte. Il presidente dell'Associazione Nazionale Calciatori Tommasi ha lasciato la riunione in anticipo commentando non pensare che non si possa non ripartire dalle elezioni. Insomma, continuano le polemiche, tra poco, come dicevo, ne parliamo. Per l'ambiente, alla conferenza mondiale del clima dell'ONU in corso a Bonn, in Germania, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto che quella del clima è una sfida centrale per il mondo, una questione di destino dell'umanità. Il nostro messaggio, ha detto la cancelliera, è che vogliamo proteggere il pianeta, apprezzando comunque gli sforzi degli Stati Uniti per rispettare gli accordi di Parigi, nonostante Trump, ha detto Merkel. Sulla stessa linea il presidente francese Macron, che ha commentato: spero che l'impegno degli Stati europei possa bilanciare l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo, e anche su questo tema poi ci concentreremo nel corso di Effetto Notte. conti pubblici adesso. Col botta e risposta tra Roma e Bruxelles sul debito, nel pomeriggio intanto la richiesta del governo della fiducia sul decreto fiscale. La Commissione europea riconosce il cambio di passo fatto dall'economia italiana, ma Bruxelles torna nel giro di poche ore ad invitare Palazzo Chigi a non abbassare la guardia sui conti pubblici. L'Italia, spiega un portavoce della Commissione, sta vedendo una ripresa che si rafforza, ma ha di fronte sfide persistenti alla luce del suo elevato livello di debito. Dal governo il ministro dell'economia Padoan mostra sicurezza e commenta: ci aspettiamo un calo deciso del debito in un prossimo futuro grazie alla più alta crescita del PIL nominale. Il paese si è rimesso a crescere, aggiunge il premier Gentiloni. Non siamo più il fanalino di coda, se proprio vogliamo metterla in questi termini, nel senso che ci sono alcuni paesi europei che nel 2017 avranno una crescita inferiore a quella italiana. Critiche al governo dalle opposizioni. Padoan sul debito racconta bugie, dice Brunetta. L'esponente di Forza Italia rimanda ai dati di Banca Italia relativi al mese di settembre. Debito in aumento di 4,4 miliardi rispetto al mese precedente, quando aveva registrato un ribasso di 21,3 miliardi. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dopo il via libera della Commissione Bilancio, il decreto fiscale collegato alla manovra è da questa mattina in aula al Senato, dove appare scontato il ricorso alla fiducia da parte del governo. Decreto fiscale alle ultime battute in Senato, dove il via libera dovrebbe arrivare entro venerdì, probabile con un voto di fiducia. Poi passaggio alla Camera per la seconda lettura. Il cuore è la sanatoria sulle cartelle esattoriali, ma il provvedimento ha imbarcato una gran varietà di misure, dal terremoto alle bollette alle norme anti-stalking. Tra le ultime novità, la cannabis terapeutica sarà a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Via libera poi la stretta contro il reato di stalking, non più cancellabile attraverso il risarcimento economico. Sì anche al finanziamento degli straordinari per la polizia. Stop alla fatturazione a 28 giorni per telefonini, abbonamenti TV. Le fatture saranno solo su base mensile o multipli del mese. Gli operatori avranno tempo 120 giorni per adeguarsi. In arrivo poi mini scudo fiscale per lavoratori frontalieri o per chi ha lavorato all'estero. Estensione dell'equo compenso a tutti i professionisti. Il provvedimento risolve anche la questione dei ragazzi delle medie, che potranno tornare autonomamente da scuola previo esonero degli istituti dalla responsabilità. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E via libera definitivo della Camera al cosiddetto whistleblowing, la possibilità di fare denunce anonime di illeciti sul posto di lavoro. Chi denuncia sarà tutelato e non potrà essere licenziato o demansionato. Un caso esemplare è stato quello di Andrea Franzoso, che da dipendente di Ferrovie Nord denunciò le spese pazze all'interno della sua azienda, portando alla condanna di primo grado per l'ex presidente. Una denuncia che però lui costò poi la perdita del lavoro. È un buon primo passo, ma restano delle criticità, commenta Franzoso intervistato da Raffaella Calandra. È una buona norma che però presenta alcune lacune. Il lavoratore del pubblico impiego ha una tutela certamente molto più forte, ha la possibilità di segnalare fatti illeciti di cui venga conoscenza sia al responsabile anticorruzione ma anche all'ANAC, all'autorità giudiziaria, ordinaria, contabile. Viceversa, il lavoratore di un'azienda privata lo può fare utilizzando soltanto i canali stabiliti, decisi dalla sua azienda. Oggi anche il suo percorso sarebbe stato più semplice, meno faticoso con questa nuova norma? Avrei avuto maggiori protezioni, però una cosa che voglio sottolineare è che questo è un primo passo, nel senso che la legge non impedirà ai colleghi di voltare le spalle a chi invece di farsi gli affari propri decide di denunciare. Un cambiamento vero ci sarà quando verrà dato un valore positivo a chi nell'interesse generale decide di non voltare lo sguardo altrove ma di denunciare. E adesso parliamo di migranti. Dobbiamo aumentare gli sforzi per affrontare le urgenze immediate e migliorare le condizioni dei migranti sulla rotta del Mediterraneo centrale, in particolare in Libia, dove sono inaccettabili, ha detto il commissario europeo per i diritti umani all'ONU, Adamopoulos. L'Italia, dice un partner, che ha fatto sforzi eroici per salvare vite e sostenere la cooperazione con i paesi. Il ministro dell'Interno Minniti giudica però non più adeguato il modello tradizionale di operazione congiunta dell'agenzia Frontex, e a dicembre ci sarà una missione del Parlamento europeo in Libia. A proposito di migranti, sono tutte morte per asfissia e per annegamento, le 26 donne i cui cadaveri erano giunti, vi ricordate, a bordo della motonave spagnola Esps Cantabria, attaccata al porto di Salerno il 5 novembre scorso, con 401 migranti. A stabilirlo queste le cause, i consulenti tecnici nominati dalla procura salernitana, che hanno eseguito sia gli esami esterni delle salme che le autopsie. E arriviamo alla politica. È stata questa una giornata densa di impegni per il mediatore delegato del PD Piero Fassino, che sta facendo un po' da pontiere tra le varie parti per la coalizione di centrosinistra, che ha incontrato il presidente del Senato Pietro Grasso e la presidente della Camera Laura Boldrini. Nei prossimi giorni vedrà Romano Prodi, che intanto è stato a pranzo con Franceschini e con Maurizio Martina, due ministri, a Bologna. Grasso afferma di non rappresentare alcun soggetto politico e che quindi non può trattare lui. Ha detto: non ho titolo per discutere di alleanze e coalizioni. Per quanto riguarda campo progressista, intanto chiarisce: non c'è unità senza discontinuità. E in una telefonata con lo stesso Fassino, D'Alema di MDP avrebbe chiuso su possibili alleanze, spiegando che il percorso ormai è già tracciato. E poi questa notizia di test di medicina in cui l'omosessualità è stata inserita nella categoria delle malattie. È francamente incredibile, a dir poco inaccettabile, afferma la ministra dell'istruzione Fedeli, che l'omosessualità sia stata inserita in questa categoria. Mi auguro che la conferenza dei corsi di laurea in medicina provveda a eliminare dall'elenco delle domande dei progress test quel vergognoso quesito, che le risposte a esso date non siano tenute in considerazione ai fini della valutazione del progresso nell'apprendimento di studentesse e studenti, e che il responsabile di questo accaduto, dice la Fedeli, sia adeguatamente sanzionato. Tutto questo mentre in Australia l'Australia dice sì alle nozze gay. Ora è attesa la legge, il referendum, oltre il 61% della popolazione è favorevole. Adesso la parola passa al Parlamento. Il maltempo, le forti piogge flagellano soprattutto l'Abruzzo, stanno creando problemi sulle coste abruzzesi. Una donna è rimasta intrappolata con la sua auto lungo la statale 81 nei pressi di Cellino Attanasio, vicino Teramo, fra due smottamenti. E su questo c'è in collegamento Renato Zauri, che è meteorologo del Centro Funzionale della Protezione Civile Abruzzo. Zauri, buonasera. Buonasera a voi e ai nostri ascoltatori. E qual è la situazione adesso in Abruzzo? Allora, nell'ultima mezz'ora sono state registrate solo precipitazioni deboli, perché i sistemi temporaleschi più importanti adesso si stanno sviluppando sul mare Adriatico e colpiscono marginalmente la nostra costa. Il fenomeno ha assunto delle dimensioni abbastanza particolari, con precipitazioni medie intorno ai 150-200 mm nelle ultime 24 ore. Per intenderci, 200 mm sono circa 200 litri d'acqua su un metro quadro. Quindi la precipitazione è stata molto importante e questo ha creato dei disagi soprattutto sui fiumi della parte centro-settentrionale dell'Abruzzo, a partire dal bacino del Pescara e i fiumi del Teramano. Comunque la situazione sta rientrando lentamente, ovviamente, e abbiamo degli allarmi su il fiume Pescara Lento, sul Saline, il Torbino e il Vomano. La cessata allerta verrà data quando questi fiumi rientreranno nel loro letto naturale e non potranno dare ulteriori problemi in caso ci fossero nuove piogge. Chiaro, grazie Zauri, grazie della Protezione Civile. Prego, della buona Bruzza. Serata. Grazie a lei. E poi lo scandalo degli abusi sessuali che ha riguardato anche un regista italiano, Fausto Brizzi. La moglie lo difende, dice: girano molte voci e tali restano per me, mia madre non sta bene, questa è la mia priorità ora, dice Claudia Zanella, moglie di Fausto Brizzi. Il regista, appunto accusato da 10 ragazze di abusi sessuali, risponde con poche parole al settimanale Oggi in un commento sulla bufera che travolge il marito. Ma Rossella Izzo, direttrice della scuola di recitazione Actors Planet di Roma, dice invece al giornale Grazia che Brizzi è stato allontanato dall'istituto di recitazione dove insegnava sulla base del racconto di alcune ex allieve. Abbiamo allontanato lui e anche altri, alcuni maestri che magari avevano strane idee, dice Rossella Izzo. Lutto nella musica, è morto Luis Bacalov, premio Oscar nel 1996 per la colonna sonora del Postino, ultimo film di Massimo Troisi e poi di moltissime altre bellissime colonne sonore. Aveva 84 anni, era nato a San Martín in Argentina il 30 agosto del 1933, però viveva dal 1959 in Italia ed era stato praticamente naturalizzato italiano. E poi questa notizia di scienza. Scienziati americani hanno reso noto di aver provato per la prima volta a modificare i geni di una persona direttamente dall'interno del suo corpo per cambiarne il DNA in modo permanente con l'obiettivo di curare una malattia. L'esperimento è stato realizzato ad Oakland, California, su un uomo di 44 anni affetto da una rara malattia metabolica, però si saprà solo fra 3 mesi se il trattamento è riuscito. E poi, come vi dicevo all'inizio, Fratelli d'Italia è ufficialmente l'inno italiano dopo 71 anni di provvisorietà, di precarietà, con una precarietà che poi, diciamo, è un termine molto attuale. Ne parleremo anche di questo, però intanto aggiorniamo chi sta viaggiando, poi cominciamo con i vari temi, con i vari ospiti, i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Già Silvia, per esempio, scrive: che emozione, cara Roberta, ascoltare il nostro amato inno alla partenza della tua splendida trasmissione. Grazie. Mentre qualcuno, come Walter, per esempio, scrive: gli inglesi, i tedeschi, i francesi hanno un inno, noi abbiamo un qualcosa che sembra più una marcetta da circo. Insomma, qualcuno piace, qualcuno continua a non piacere. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti sempre ricchi ricchi di notizie, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sempre Roberta Giordano con voi. Cominciamo allora ad affrontarne alcune in modo più approfondito con gli ospiti, e tra poco vi ricordo anche i titoli principali per chi non si presentasse puntualmente ad ascoltare Effetto Notte alle 21. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp. E già qualcuno, anche Fabio, dice a proposito dell'inno italiano, che sapete, vi dicevo, è ufficiale da oggi che il nostro inno, dice: fate ascoltare l'inno tedesco, inglese, russo e poi il nostro pere pepe, capirete la differenza. Vari, insomma, sono piuttosto critici e polemici sull'inno, che non ha sempre innamorato tutti, diciamo, però l'inno nazionale, poi sentiremo anche la storia interessante. Intanto però vi ricordo i fatti principali di oggi. Nazionale di calcio: Ventura non è più commissario tecnico azzurro, il presidente Tavecchio invece resiste, tra poco ne parleremo. E poi, per quanto riguarda invece gli altri temi, l'ambiente, con la conferenza all'ONU e l'appello della cancelliera Merkel sui cambiamenti climatici, che dice: sono una sfida centrale per l'umanità, dobbiamo salvare il mondo. Conti pubblici: altre bacchettate da Bruxelles, ma Gentiloni replica: l'Italia non è più il fanalino di coda. E poi per la politica, Fassino che apre il dialogo a sinistra, ma c'è stop di MDP all'alleanza. Gay: l'omosessualità inserita nella categoria delle malattie nei test universitari è di una gravità inaudita, commenta la ministra Fedeli. Del maltempo anche abbiamo appena parlato, emergenza in Abruzzo, flagellato dalle piogge. E poi è morto Luis Bacalov, Oscar per la colonna sonora del Postino. Nato in Argentina, viveva dal 1959 in Italia, e per il canto degli italiani di Mameli, vi dicevo, è da oggi Oggi l'inno ufficiale degli italiani. Torniamo allora su questo flop della nazionale contro la Svezia e quindi la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali di Russia 2018. Forti polemiche, lo sapete, ne sono scaturite, recriminazioni, accuse, grandi pressioni anche su il presidente della FIGC, della Federazione Italiana Calcio, Tavecchio, e sull'allenatore della nazionale Ventura affinché si dimettessero. Sono arrivate, diciamo, queste pressioni da più parti, però Ventura, c'era stato un po' un giallo ieri, prima aveva detto di sì, poi di no, poi ha chiesto la buona uscita. Insomma, oggi la riunione della Federazione Calcio, i vertici che si sono riuniti, hanno deciso di esonerarlo, mentre Tavecchio dice: no, non mi dimetto. Vogliamo sentire qualche passaggio di Tavecchio? Oggi ho parlato con Ventura e gli ho comunicato che non abbiamo più necessità delle sue, della sua collaborazione, dei suoi servizi, quindi da oggi non è più l'allenatore della nazionale italiana gioco calcio. Abbiamo anche pensato degli orizzonti di allenatori importanti e vedremo di portarli possibilmente a termine. Non abbiamo più bisogno dei suoi servizi, Giovanni Capuano, quando mi verrebbe a dire non abbiamo più bisogno dei suoi servigi, direbbe. Cioè, è una formula un po' particolare che ha usato Tavecchio per esonerare Ventura, no? Ciao intanto, buonasera. Sì, ha usato una formula un po' particolare che nasconde 43 ore e 39 minuti, perché tanti sono passati tra l'eliminazione d'Italia-Svezia e il momento in cui il presidente federale ha fatto uscire il comunicato con cui ha esonerato Ventura, e insomma quella formula lì nasconde 43 ore e 39 minuti di altissima tensione. Iniziata già a San Siro nei minuti successivi al nostro KO contro la Svezia, è proseguita praticamente fino al momento della telefonata di cui parla Tavecchio, perché è evidente che tutti, Tavecchio per primo, si aspettavano le dimissioni di Giampiero Ventura, si aspettavano il passo ad esempio fatto da Prandelli nell'estate del 2014 a Natale in Brasile dopo l'eliminazione dal girone eliminatorio del Mondiale, quindi se vogliamo un risultato nettamente superiore rispetto a quello raggiunto in questo momento, che si tratta, lo ricordiamo per l'ennesima volta, della seconda mancata partecipazione per eliminazione dell'Italia da un Mondiale dopo quella del 1958. Ventura invece ha tenuto duro, in ballo ci sono tanti soldi, ci sono circa 800.000 euro netti, perché Ventura era coperto da contratto fino al giugno del 2020, ma la seconda parte, quella dal 2018 al 2020, il rinnovo era stato fatto nell'ultima estate, diciamo era legata a una clausola che non è scattata con l'eliminazione dal Mondiale. Rimangono però le ultime 7 mensilità e mezzo dal momento dell'esonero, quindi da questo pomeriggio fino al 30 giugno del 2018, e sono soldi che a questo punto Ventura si farà riconoscere dalla Federcalcio, ha diritto dal punto di vista legale a questo. È del tutto evidente che si sarebbe trattato insomma una questione di dignità e di opportunità. Il CT che firma e mette la faccia su una delle peggiori pagine calcistiche della storia d'Italia, calcistiche e sportive della storia d'Italia, era atteso insomma a fare un passo indietro. Non è accaduto, vedremo che cosa accadrà nei prossimi mesi, perché se Ventura avrà una proposta qualsiasi a quel punto andrà dalla federazione a chiedere di essere liberato, però Ventura ha una busta paga da circa 100.000 euro al mese, e quindi diciamo che a partire dal 27 di questo mese la FIGC dovrà continuare a pagarlo, e tra l'altro insomma avrà anche meno risorse per cercare quello che avete sentito nelle parole di Tavecchio. Poi parliamo di Tavecchio però, comunque nelle parole di Tavecchio insomma dovrà essere successore, si cerca un nome di alto profilo, il nome è quello di Carlo Ancelotti. È vero che si parla anche di Buffon, scusa se ti ho interrotto, avevo visto anche Buffon oggi. No, Sì, c'è questa suggestione, Buffon a luglio dovrebbe smettere con il calcio, smetterà quasi certamente con il calcio, lui si è lasciato aperta la porta solo in caso di vittoria della Champions League con la Juventus per andare poi a giocarsi il mondiale per club nel dicembre, ma stiamo davvero parlando… Cosa, 39 anni? 39 sì, anni? Sì, però stiamo davvero parlando di un'ipotesi insomma remota, e tra l'altro di discorsi che erano stati fatti prima di questa grandissima delusione, però quella di Buffon oggi è una suggestione. La verità è che Tavecchio, che sta cercando di sopravvivere perché anche lui è responsabile e coautore insieme a Ventura dello scempio che abbiamo visto negli ultimi 2 mesi, ha bisogno di un nome fortissimo da spendere oggi, che poi è la stessa tattica utilizzata nell'estate del 2014, quando dopo le dimissioni di Prandelli e dell'allora presidente federale Abete, lui divenne il papabile per diventare presidente della FIGC, fece le famose gaffe che parevano averlo messo fuori combattimento, ma riuscì a farsi eleggere e poi si presentò con il nome di Antonio Conte. Lui oggi sta cercando di fare la stessa operazione, e cioè sopravvivere in questo caso a se stesso, è stato rieletto da pochi mesi e quindi avrebbe diritto ad andare avanti ancora per 4 anni, sopravvivere a tutto quello che è successo presentandosi con il grande nome che tutti si aspettano, che è quello di Carlo Ancelotti. Risulta che qualche contatto ci sia stato, risulta che la posizione di Ancelotti sia tutta da capire, perché all'inizio era stata di chiusura, poi insomma Tavecchio è anche capace di convincere quelli più riluttanti, questa è una qualità di cui bisogna dargli conto, perché lo stesso Antonio Conte raccontò che nell'estate 2014 nemmeno voleva rispondere alle telefonate di Tavecchio, e poi Conte per 2 anni è stato CT della nostra nazionale, e quindi questa è una pagina tutta da scrivere, così come però credo sia tutta da scrivere la pagina su Tavecchio, perché lui oggi si è detto indisponibile alle dimissioni, l'opinione pubblica, il presidente del CONI, il ministro dello sport, sono tantissimi che invece stanno facendo una forte pressione per chiedere le sue dimissioni, basti leggere le prime pagine dei giornali di oggi, lo sport titolava te ne vai o no, con la foto di Tavecchio, lui al momento ha ancora la maggioranza in Consiglio federale e quindi tira dritto, lunedì lo avete sentito, riunirà lo stesso Consiglio federale, credo che varrà molto l'aspetto tempo. Se lui riuscirà davvero nell'arco di pochi giorni a portare Ancelotti alla guida nazionale, magari potrà riuscire salvarsi, a essere il motore della ripartenza, altrimenti diventerà tutto estremamente più complicato. E attenzione, perché oltre al nome dell'allenatore potrebbe anche esserci la tentazione di portare un altro grande ex del calcio italiano che fin qui è rimasto ai margini, come Paolo Maldini, e dargli un ruolo in federazione. Però ripeto, in questo momento tolto di mezzo Ventura, e abbiamo detto la modalità, che quindi è quella non delle dimissioni ma quella dell'esonero e quindi dello stipendio che verrà pagato fino al momento dello scioglimento di quel contratto, adesso nel mirino c'è Carlo Tavecchio, e in queste ore, nei prossimi giorni, le pressioni perché invece lasci saranno fortissime. Infatti vedo anche tra i messaggi questo ascoltatore, per esempio, dice: una vergogna avere persone come Tavecchio e Ventura che rappresentano l'Italia del calcio, ma la cosa più incredibile è che non si possa mandare via Tavecchio. Giovanni, abbiamo veramente soltanto ancora un minuto, ma per chi non lo sapesse c'entra anche sempre un po' la politica anche in questi ambiti, no? Tanto che leggevo che Tavecchio, dopo lo shock di San Siro, ha sondato gli umori della politica, in particolare di Forza Italia. Spieghi perché, che cosa sono questi collegamenti, in breve. Ma guarda, il tema è molto semplice: Tavecchio non può essere rimosso dal CONI, la Federcalcio non può essere commissariata, queste sono le regole, è lo statuto, e quindi non esiste la possibilità di rimuovere Tavecchio. È evidente che però Tavecchio in questo momento dipende molto anche dalle scelte politiche, perché ci sono in gioco cose importanti, la riforma della legge sui diritti TV, e evidentemente farebbe fatica probabilmente a sopravvivere a un fuoco di sbarramento anche di quelli che saranno e sono i suoi riferimenti, sono adesso e potranno essere magari fra qualche mese con un governo diverso i suoi riferimenti all'interno, insomma, degli organi istituzionali, e quindi si cerca in questo momento, in queste ore, si cerca un appoggio anche su quel versante per cercare di uscire da questa situazione. Chiudo però dicendo, e questo ovviamente non è il momento, e probabilmente lo sarà se Tavecchio sopravviverà a se stesso, che poi la valutazione sull'operato di un presidente federale è legata in molta parte ai risultati del campo. In questo Tavecchio ha completamente sbagliato la scelta di Ventura ed è assolutamente responsabile, ma poi va fatta anche su scelte politiche, perché il presidente della federazione è quello che garantisce l'attività di milioni di tesserati del calcio sportivo, del calcio giovanile, dilettantistico, femminile. Insomma, ci sono tanti aspetti che poi andranno analizzati, e forse questo è anche uno dei motivi per cui in questo momento Tavecchio non è in minoranza all'interno del Consiglio federale e quindi può permettersi di restare. Grazie Giovanni. Ancora Sergio da Milano dice: ma lo vogliamo capire che in Italia non esistono i samurai, solo in Giappone esistono e hanno la dignità di autoeliminarsi per la vergogna. Questo Sergio da Milano. Adesso invece ci spostiamo su tutt'altro tema, diciamo, questo veramente più ponderoso e globale, che è quello dei cambiamenti climatici, con il nostro Jacopo Giliberto del Sole 24 Ore. Ciao Jacopo. Ciao Roberta. Perché è in corso a Bonn, in Germania, la conferenza ONU sui cambiamenti climatici. No, la cancelliera Merkel, anche in questa occasione, come precedentemente, ha un po' ha indossato le vesti, insomma, della strenua difensora dell'ambiente, della salvaguardia, insomma, dell'ecosistema, del mondo. Addirittura, diciamo, ha sintetizzato l'obiettivo da perseguire in questo concetto, dicendo: quello del clima è una sfida centrale per il mondo, una questione di destino dell'umanità, e ha sottolineato il nostro messaggio, che vogliamo proteggere il pianeta. Allora, Jacopo, sono sempre un po', diciamo, enfatiche parole così retoriche, o davvero questa conferenza ONU segnerà dei passi in avanti? Perché lei ha detto: ringraziamo anche gli Stati Uniti, nonostante la politica di Trump, e Macron anche, diciamo, solidale con cancelliera Merkel. Ci sono diversi livelli di lettura. In primo luogo il fatto che Angela Merkel è stata, prima di essere cancelliera tedesca, è stata ministra dell'ambiente, e anche con notevole competenza, e quindi quando parla sa esattamente il fatto suo. Però ha detto delle cose anche di taglio economico. Ha detto, per esempio, non sarà facile per la Germania lasciare il carbone, che, come sappiamo, è combustibile fossile, ha maggiore emissione di anidride carbonica. E anche Trump non intende mollare su quello. Esattamente. Non sarà facile in termini di costi dell'energia, perché costa poco il carbone, produrre elettricità col carbone costa poco, e di perdita di occupazione, cioè l'occupazione mineraria in Germania. Sono già delle indicazioni interessanti di che cosa sta succedendo a Bonn in questi giorni, queste due settimane di COP23. COP è la sigla di Conference of Parts, conferenza delle parti, che si svolgono una ogni anno. E questa è la ventitresima. È la ventitresima. Una ogni anno, in genere tra novembre e dicembre, secondo gli appuntamenti, in una città diversa del mondo ogni volta. Allora, la COP23 di Bonn non sarà come la 21 di Parigi del 2015, in cui si delineò la grande strategia globale condivisa tra tutti i paesi. Sarà molto più applicativa, molto più economica, molto nelle cose. Cioè, come andremo a... Visto l'accordo di Parigi di due anni fa, come lo mettiamo in pratica? E allora bisognerà fissare degli standard tecnologici, bisognerà fissare dei modelli di produzione, delle modalità per emettere meno anidride carbonica. Allora la Germania, che governa il negoziato, sono padrone di casa, Angela Merkel è la padrona di casa in quel visto contesto. Che si svolge a Bonn. Esattamente, ed è la capa negoziatrice, la Germania cercherà di arrivare a dare alla Germania e più in generale all'Europa gli standard tecnologici che il mondo dovrà seguire per diventare più ecologico. È una questione economica, soprattutto. Appeal ce n'è di meno, non c'è un grande appeal, non ci sono i grandi proclami, è più vicino appunto. Però si va più nella concretezza, si va spera. Più nella concretezza. Fino a quando dura? Ancora la settimana prossima. Ah, quindi c'è tempo magari per arrivare a un risultato concreto. Sì, ma saranno risultatini che non sarà difficile sbandierarli dicendo grande vittoria, perché saranno sempre piccoli passi. Una dichiarazione finale con le virgole, i ritocchi e i fiocchetti. Grazie Jacopo Giliberto. Ciao Jacopo. Allora ci prendiamo una pausa momentanea come sempre a quest'ora e poi gli altri temi, tra poco. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete esattamente al posto giusto, nel momento giusto, e anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora il filo delle notizie. Abbiamo già parlato di tante cose, abbiamo parlato della conferenza sull'ambiente a Bonn, con la cancelliera Merkel che dice dobbiamo salvare il mondo, il clima è il destino dell'umanità. E poi ci siamo soffermati anche lungamente sulle novità che riguardano il calcio, la Federcalcio, le pressioni varie per le dimissioni di Ventura e Tavecchi. Ventura, il ex ormai commissario tecnico della Nazionale, è stato esonerato con quell'espressione particolare che sottolineavo di Tavecchio, l'abbiamo sentito nella conferenza stampa, che ha detto non ci servono più i suoi servizi, ecco. E poi invece Tavecchio, presidente della Federazione Calcio, che per il momento, nonostante le molte critiche, accuse eccetera, resiste. Ora invece parliamo un po' di questioni economiche, di debito pubblico, di nuovo questo ping pong tra Bruxelles e il governo italiano. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, e il numero per SMS e WhatsApp, che è sempre quello, 349-238-6666. Dice per esempio questo ascoltatore: comunque Ventura ha avuto la più brutta punizione per il resto dei suoi giorni, penso che non ci sia denaro che possa cancellare l'onta di una clamorosa eliminazione da un mondiale, verrà sempre preso di mira ovunque andrà. Effettivamente dice, poveretto, questa è una punizione, però i suoi, cosa diceva il nostro Giovanni Capuano, 800-900 mila euro, così di buona uscita, se li prende tranquillamente. E certo non è un'uscita felice, diciamo, no? Dalla nazionale, non so se dal mondo del calcio, che farà. Adesso però ci occuperemo, appunto, vi dicevo, di altro, mentre vi ricordo molto velocemente quali sono i fatti principali della giornata, se non eravate pronti all'appello alle 21. Crisi della nazionale, Tavecchio caccia Ventura ma non molla, dice sono indisponibile alle dimissioni. E poi l'Unione Europea che incalza l'Italia sul debito, e ne parleremo tra pochissimo. Fassino del PD che apre al dialogo a sinistra, sta facendo un po' da pontiere, ma intanto D'Alema per MDP dice la strada ormai è tracciata. E poi il maltempo che flagella il centro Italia, in particolare l'Abruzzo, ne abbiamo parlato con un meteorologo della Protezione Civile dell'Abruzzo, la sfida di Merkel, cancelliera della Merkel sul clima in questa conferenza dell'ONU a Bonn, e poi la moglie di Brizzi, Fausto Brizzi, il regista accusato di pesanti molestie sessuali, di abusi sessuali in questi giorni. Lei si dice addolorata per lui, mi sono vicina, queste sono voci per il momento, però c'è Rossella Izzo che dirige la scuola di recitazione Actor Planet a Roma, che dice è stato allontanato in passato anche da questa scuola per i racconti delle sue allieve. Poi un lutto nella musica, è morto un grande compositore di colonne sonore che è Luis Bacalov. C'è anche, credo, l'orgoglio, la soddisfazione di dire che si sono fatti dei passi in avanti, che la crescita accelera. Quindi, primo, noi non siamo il fanalino di coda, almeno da ieri non lo siamo più, ma la sostanza è capire che il Paese si è rimesso a crescere, che questa crescita però non ha risolto i nostri problemi sociali, economici, non ha risanato le cicatrici della crisi di questi anni. Oh, e su questo saluto il vice direttore del Sole 24 Ore, Jean-Marie Delboo. Jean-Marie, ciao. Ciao. Quindi riprendono questi solleciti dell'Unione Europea all'Italia sui conti pubblici, no? Ieri è arrivata questa buona notizia dei dati dell'Istat che confermano le stime già fornite dal governo della Banca Italia della crescita del prodotto interno lordo, no? Che si attesta sull'1,8%, la crescita tendenziale, che sarebbe la più alta da oltre 6 anni. Ieri soddisfazione del governo, Gentiloni che dice non dilapidiamo i risultati, poi però subito ieri il vicepresidente della Commissione Europea Katainen ha mosso un'accusa piuttosto pesante, dice sui conti pubblici i politici italiani non dicono la verità, e Bruxelles fa sapere che insomma manderà un'altra lettera al governo italiano. Come sta, dove sta la verità, Jean-Marie? La verità sta nel fatto che il governo italiano è stato messo sotto osservazione, nel senso che il confronto tra l'Italia e l'Unione Europea sulla determinazione dei conti va avanti da mesi, e chiaramente l'Unione Europea, vedendo anche i buoni risultati, vuole in qualche modo vincolare l'Italia a non sperperare le risorse nuove che potrebbero arrivare e nello stesso tempo ribadire che il suo giudizio definitivo arriverà nel momento in cui ci sarà un nuovo governo. Questo perché? Perché probabilmente non si vuole da un lato mettere in difficoltà il governo esistente, dall'altro si vuole però conservare una sorta di controllo sulle scelte, o di moral suasion sulle scelte che potranno essere effettuate dal governo italiano già nel decreto fiscale in corso di approvazione e poi a maggior ragione nella legge di bilancio che verrà approvata entro fine anno. La legge di bilancio per la quale ci sarà una grande tentazione, cioè quella di fare una legge di bilancio molto elettorale e quindi molto di spesa. Quindi Jean-Marie, che cosa ci dobbiamo aspettare, diciamo, nelle prossime settimane, insomma nel futuro più prossimo, a proposito dell'Unione Europea che appunto continua a incalzare l'Italia? Ci dobbiamo aspettare che questo marcamento a uomo, per tornare al calcio e non a zona, continui e di fatto continui indipendentemente da quello che sarà l'uomo, cioè continuerà per Gentiloni, ma continuerà nel momento in cui eventualmente le nuove elezioni dovessero consegnare a un altro esponente politico la guida di Palazzo Chigi. Diciamo che l'Europa ci marca stretti e sta cercando anche probabilmente di evitarci di dilapidare una parte delle opportunità che ci siamo creati con sacrifici, con scelte complicate, con la crescita che si è manifestata negli ultimi anni. Si può poi discutere se questa sia la politica giusta dell'Unione Europea. Certo è che diciamo l'Italia ha avuto varie deroghe negli ultimi tempi e molto si è giovata anche delle politiche della Banca Centrale Europea. Vedremo insomma che cosa succederà prossimamente, comunque appunto è ripreso questo ping pong. Grazie a Jean-Marie Delboo, vice direttore del Sole 24 Ore. Buona serata. Grazie Jean-Marie. A voi, buonasera. Ciao. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo insieme, abbiamo ancora un bel tema di cui parlare. Sui titoli ve li ripeto molto velocemente: la nazionale di calcio con Ventura che non è più commissario tecnico azzurro e il presidente della FIGC Civitavecchio che invece si dice indisponibile alle dimissioni. Per l'ambiente, conferenza dell'ONU a Bonn con l'appello della cancelliera Merkel che dice che i cambiamenti climatici sono una sfida centrale per l'umanità. Dei conti pubblici abbiamo appena parlato, con le bacchettate di Bruxelles alle quali Gentiloni replica: l'Italia non è più il fanalino di coda. E poi per la politica, Fassino che cerca di fare da pontiere tra il PD e la sinistra, anche se c'è lo stop di MDP sull'alleanza. Gay, l'omosessualità inserita nella categoria delle malattie nel test universitari di medicina, e la ministra Fedeli che dice è di una gravità inaudita e i responsabili saranno sanzionati. Per il maltempo, l'Abruzzo flagellato dalle piogge, e poi è morto Luis Bacalov, Oscar per la colonna sonora del Postino. Il coro degli alpini con l'inno di Mameli che, come vi dicevo, diventa ufficialmente l'inno italiano dopo 71 anni di provvisorietà. L'inno di Mameli, o meglio il canto degli italiani si chiamerebbe, diventa ufficialmente l'inno della Repubblica Italiana perché il Senato ha approvato definitivamente la legge che lo ufficializza. E pensate che lo aveva preso in prestito, diciamo così, il Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 1946, l'aveva adottato provvisoriamente, sempre provvisorio è rimasto, anche se molti non lo sanno. Per esempio, tra i vostri messaggi c'è Luigi che scrive: siamo cresciuti con questo inno credendolo fino ad oggi ufficiale. Le parole saranno antiquate, ma non lo cambierei con nessun altro. Questo sulla pagina Facebook di Effetto Notte, potete anche scrivere al 349-238-6666. Mentre molti dicono: per carità, una canzonetta, o altri, come vi leggevo prima, dicono: sentiamo l'inno americano, russo, inglese, quelli sì che sono inni. E poi qualcun altro invece che polemizza dicendo: ecco, questa legge è stata fatta in 448, in realtà no, varie legislature hanno cercato di portarla in porto. Ne parliamo con Gianluca Tarquinio. Buonasera Tarquinio. Buonasera a voi. Che è musicologo esperto di discologia e storia dell'interpretazione musicale, ha scritto proprio un libro, Il canto degli italiani, storia e discologia dell'inno nazionale italiano. Ci racconta che storia ha questo inno che, tra l'altro, diciamo, per beffa del destino, proprio adesso che, diciamo, che nell'immaginario collettivo è entrato soprattutto proprio come inno cantato dalla nazionale di calcio, no? Invece con il flop di quest'anno nel 2018 non ci sarà l'inno italiano proprio nel momento in cui diventa inno ufficiale. Che ci racconta Tarquinio? Ma che prendere un po' spunto dall'ultima frase, diciamo che mancando la nazionale di calcio, che poteva essere così un elemento aggregante della nazione, puntualmente ne abbiamo ufficializzato un altro che è il nostro inno. Sì, lei ha perfettamente ragione, un inno che ha una storia enormemente travagliata, dal lontano 47 quando fu composto fino ad oggi, si può dire, è stato e non è stato l'inno nazionale, da tutti accettato ma da tutti contestato anche in chiave politica, non soltanto popolare. E dobbiamo ringraziare però alcuni personaggi, ad iniziare da Giuseppe Verdi, se è arrivato fino a noi e non si è perso nei meandri della storia della musica italiana. È un inno, sì, il testo è difficile da comprendere, noi ci limitiamo a cantare soltanto la prima delle quattro strofe o cinque che vogliamo, però è bello, cioè, ci lega tutti, ci appassiona e ormai lo abbiamo imparato. È vero, è vero che ha fatto concorrenza nel corso della storia il Va Pensiero, no? Il coro del Nabucco di Giuseppe Verdi, poi la Lega anche l'aveva preso come inno alternativo, insomma anche la concorrenza oltre che il dileggio, no? Hanno contrastato. Sì. No, la concorrenza è stata davvero spietata, ma già da subito, perché le dicevo, il 12 dicembre del 47 fu eseguito pubblicamente per la prima volta, ma nello stesso anno, nella stessa occasione genovese, c'era un altro inno, sempre con i testi di Mameli, lo stesso testo di Mameli che venne musicato da un veneziano. Quindi era una concorrenza nata subito, perché il testo comunque piaceva. La musica poteva essere discutibile, ma stiamo parlando di quegli anni lì, gli anni della prima guerra di indipendenza. Lo volle Alcide... Ecco, mi scusi, lo volle Alcide De Gasperi, no? Mi sembra. Lo volle, sì, il ministro della guerra del governo De Gasperi, il ministro Facchinetti, che insomma, non sapendo cosa far suonare le bande musicali nel momento della ricorrenza del 4 novembre, rispolverò il canto degli italiani di Mameli di Novaro. E allora il decreto del Consiglio dei Ministri, come ha ricordato lei, del 12 ottobre del 1946, così proclamò provvisoriamente che la composizione di Mameli diventasse l'inno nazionale italiano, ma sempre provvisoriamente, così è stato, nonostante tanti poi suggerimenti parlamentari, perché la nostra, se adesso vado così un po' a naso, è la quarta legislazione. Quindi nelle tre precedenti si erano già sbizzarriti un po' a cercare di farlo approvare e farlo diventare legge, ma sembra vuoto. Oggi ci siamo riusciti. Se lei dovesse dare, Tarquinio, un giudizio sia dal punto di vista musicale che del testo, visto che lei è un musicologo, così apertamente, sinceramente, che direbbe? Sì, è difficile. È difficile perché, le spiego subito, anzi speriamo che adesso le cose cambieranno, perché non sappiamo suonare l'inno e non sappiamo neanche cantarlo bene. E allora finiamo su questo, Tarquinio, sperando di riuscire a cantarlo meglio e a suonarlo meglio, perché sento la sigla che sta salendo, quindi ci dobbiamo lasciare. Intanto però la ringrazio, Gianluca Tarquinio. Grazie, buon inno anche a lei allora. Grazie a voi, buon proseguimento. Il proseguimento, poi sapete, adesso ci lasciamo, è brevemente alle 22.